Guerriglia Live Show! Uno spettacolo politicamente scorretto, uno spettacolo di classe, uno spettacolo per anime perse e disorientate. Proprio come la tua. Parole che mozzano, sanguinano, brancolano, da trangugiare d'un fiato, da somministrarsi senza cura. La giocabilità è estrema, la longevità notevole, la distruttibilità è totale. Uno spettacolo in bilico tra mito poiesi e mitomania. Le due facce ovviamente sono l'una il verso dell'altra. Uno spettacolo che genera suggestioni che si sommano ad altre suggestioni. Livelli interpretativi sempre diversi. Ad un certo punto dello spettacolo parleremo anche dell'eterno conflitto tra idealità e necessità della storia, tra volontà e realtà. Guerriglia Live Show! Mio stimabile pubblico, questo è uno spettacolo deplorevole. Sono piccole cose violente, uno spettacolo irreale, allucinato, come il sole che luccica sul mare d'estate. A qualcuno potrà sembrare uno spettacolo subdolo, disgustoso, aggressivo, ed è proprio così. Questo è uno spettacolo che avrà parecchie repliche. Quando va in scena il copione non cambia mai. È uno spettacolo chiaro, come la luce del giorno. Bene, le condizioni per la buona riuscita della rappresentazione ci sono tutte. Ed allora godetevi il più selvaggio, sfacciato e talvolta volgare spettacolo dell'anno. Questo spettacolo rappresenta una seria minaccia per il futuro dei vostri figli. Per cui vi darò esattamente 20 secondi per alzarvi ed andarvene. Per tutti gli altri, buon divertimento. Guerriglia, guerriglia, guerriglia live show. Guerriglia, guerriglia, guerriglia live show. Guerriglia, guerriglia, guerriglia live show. Guerriglia, guerriglia, guerriglia live show. Guerriglia, guerriglia, guerriglia live show. Guerriglia, guerriglia, guerriglia live show. Guerriglia, guerriglia, guerriglia live show. Guerriglia, guerriglia, guerriglia live show. show. Guerriglia, guerriglia, guerriglia live show. Guerriglia, guerriglia, guerriglia live show. Autunno, è tempo di guerriglia. Anche perché in Francia dobbiamo festeggiare il secondo anniversario della sommossa nelle banlieue. Ed allora, per chi volesse dedicarsi a questo esercizio, ecco una lista degli ultimi ritrovati in fatto di armi e tecniche di guerriglia. Ed iniziamo dalle armi con le quali Nicolas Sarkozy, il presidente della Repubblica Francese, allora ministro degli interni, e allora ancora regolarmente sposato, prima di incontrare Carla Bruni. Dicevamo, iniziamo con i mezzi con i quali appunto Nicolas Sarkozy intendeva vincere la guerriglia. Il karcher. Il karcher è una specie di carro armato, il cui cannone, invece di sparare proiettili, spara un getto di acqua ad alta pressione. È nota la frase con la quale sempre Nicolas Sarkozy intendeva probabilmente mettere paura, riuscendo in realtà soltanto a buttare benzina sul fuoco. Nelle ultime versioni, il karcher spara acqua mista a colorante. Geniale. In questo modo i manifestanti vengono tinti di rosa shocking o giallo canarino per poter essere poi rintracciati facilmente dai CAFs e ovviamente pestati a dovere. Un'altra arma interessante è il Taser X26, un'arma che spara una scarica elettrica da 50.000 volt. Wow! Provoca la paralisi per 5 secondi della vittima, ma soprattutto è considerata un'arma provocatoria, perché la rivolta delle banlieue iniziò proprio con la folgorazione di due black che si erano rifugiati in una cabina elettrica per sfuggire ai CAFs. E poi abbiamo la flashball, una pistola che spara delle pallottole di gomma grosse come un uovo. A un metro la flashball uccide, a 3 metri mette KO, dai 5 ai 10 metri fa molto male. CS è erede del famigerato gas CN, una sostanza fortemente irritante, urticante. Se respirato vicino alla bomba, il gas CS può provocare edemi polmonari e talvolta anche la morte. Il gas CS, e questo è divertente saperlo, è una sostanza proibita in guerra, ma è legale in pace. Nel caso in cui andiate in una manifestazione nella quale prevedete la possibilità che venga sparato del gas CS, Oltre ai soliti stracci imbevuti d'aceto per proteggervi, sarebbe molto utile proteggervi con del Malox. Malox in soluzione al 50%. Come filtro, ricordate di cospargere bene il viso, gli occhi, anche tutto il corpo. Protetti dal Malox, potrete andarvene a spasso tranquillamente tra nuvole di gas CS, sotto gli occhi allibiti dei Kefs. Il che, sinceramente, dà anche una certa soddisfazione. Comunque, se doveste essere contaminati, niente paura. Niente panico. Calma. Calma. Non scappate come dei pazzi a destra e a sinistra. È totalmente inutile ed è pericoloso per le persone che avete intorno, per voi. Con calma, allontanatevi dal luogo della contaminazione. Rimanete all'aria aperta, cercate una fontana, dell'acqua corrente in modo da potervi sciacquare il viso, gli occhi, lavarvi bene le mani. Magari usate del sapone naturale, non neutro, sapone naturale, o della soda, perché sono basici ed aumentano la possibilità di idrolizzare la sostanza lacrimogena. Soprattutto non usate degli oli, delle sostanze grasse. Per le ragazze che vanno alle manifestazioni, non truccatevi, non mettetevi fondotinta. Sono sostanze grasse che trattengono il gas lacrimogeno, che notoriamente è lipofilo. Dopo esservi ben sciacquati, rimanete all'aria aperta, con le braccia larghe. Evitate di toccarvi il viso con le mani se non le avete ben lavate, perché sennò vi contaminerete nuovamente. Se indossate dei vestiti permeabili, maglioni, camicie, insomma, se indossate dei vestiti che non sono impermeabili, ricordate di lavare bene anche quei vestiti, perché anch'essi saranno contaminati e devono essere decontaminati. Non è difficile. Niente panico. Niente panico. Il gas CS può essere sconfitto dal Malox in soluzione al 50%. Il Malox si trova in farmacia. Thank you. Piccolo intermezzo. La divulgazione, a volte anche in chiave ludica, è un ottimo strumento di comunicazione per diffondere molti saperi in tante persone. Quello che ci guiderà oggi è il rigore, consapevoli del fatto che la materia che stiamo affrontando è intrisa di lutti e sofferenze. Per questo non daremo spettacolo dei gialli della politica, ma cercheremo di capire insieme, per non dimenticare e per poter affrontare con maggiore lucidità la costante inquietudine ed insicurezza di questi tempi. Passiamo ora alle armi della guerriglia. La mazza da baseball. La mazza da baseball è un'arma impropria e questo è molto importante perché vuol dire che in caso di arresto non aggrava particolarmente la vostra situazione. Potrete sempre sostenere di essere degli assi del fuoricampo. La mazza da baseball è utilissima per spaccare i vetri delle autovetture alle quali avrete deciso di non dare fuoco. Ne esistono di diversi tipi, di diverse dimensioni, anche se normalmente la larghezza non è mai superiore ai 7 cm e la lunghezza al 1,67 m. Proprio per questo potete scegliere la mazza da baseball che vi piace di più. Provatela. È sicuramente uno strumento molto più efficace e, se devo dire la verità, anche molto più elegante dei soliti Stalin o degli autocostruiti che normalmente portate nelle manifestazioni. La contemporaneità, la modernità, è importante anche nella guerriglia. La mazza da baseball, in particolare, viene costruita con moltissima cura ed attenzione al bilanciamento. Ed è proprio per questo che permette dei tiri veramente potenti. Passiamo ora ad una tecnica di guerriglia divertente, il touch and go, una tecnica che ha trovato un largo utilizzo proprio nelle ultime sommosse. 3-4 manifestanti massimo, molto velocemente, si avvicinano ad una macchina e le danno fuoco, scappando rapidamente. Quando i Kefs arriveranno, loro saranno già lontani e staranno bruciando un'altra macchina. Un'evoluzione del touch and go è il piège à keufs. Il piège à keufs può essere messo in pratica unicamente nel caso in cui i keufs non siano particolarmente numerosi. Funziona così. In 3-4 persone vi avvicinate ad una macchina e come nel touch and go le date fuoco, ma invece di scappare aspettate. Aspettate che arrivino i keufs. In quel momento usciranno dai loro nascondigli i vostri amici, armati di mazze da baseball, e praticheranno un bel passage à tabac sui keufs, rendendo tutte le botte che avrete preso precedentemente. È una delle tecniche che fa più infuriare quel simpaticone di Sarko. Thank you. indicare il movente individuale, come se si stesse leggendo un romanzo poliziesco. Inutile anche ascoltare le motivazioni dei singoli per trovare delle indicazioni affinché questo non accada più. La verità è che le automobili vengono bruciate come perfetto attrattore simbolico, così come i supermercati, le scuole, gli asili, le sedi municipali e ovviamente i commissariati di polizia. È ingiusto dunque parlare di atti vigliacchi di teppisti che approfittano della notte per bruciare automobili e poi scappare velocemente. La verità sta molto più nelle parole dei Funky, un gruppo rap parigino che canta: ci state strizzando, bene, ora lo sapete, ci dobbiamo difendere. E non chiedetevi poi perché. Ci state strizzando, bene, ora lo sapete, ci dobbiamo difendere. E non cercate poi di capire. E non cercate poi di capire. E non cercate poi di capire. Ci state strizzando, bene, ora lo sapete, ci dobbiamo difendere. E non cercate poi di capire. E siamo arrivati alla mia arma preferita, il pavé, o in italiano San Pietrino, o anche ersercio. In realtà io preferisco pavé, è molto più elegante, il suono è più gentile, très gentil. Je te tirerai un pavé. È molto meglio che dire gli ho tirato un San Pietrino. Il pavé è veramente l'arma del popolo, micidiale, perché sotto una pioggia di pavé anche i keps più agguerriti indietreggiano. A Nizza quegli incompetenti di urbanisti hanno costruito dei marciapiedi senza pavé, creandoci l'obbligo di utilizzare i gallets. I gallets si trovano sulla spiaggia, lungo la prom, ma certo questo comporta dei problemi logistici che potete facilmente immaginare, anche se i gallets dalla loro hanno un pregio. Le dimensioni sono varie, per cui potrete utilizzare i gallets più piccoli per i lanci da lunga distanza, i gallets di dimensioni medie per i lanci da media distanza e finalmente i gallets più grandi per il corpo a corpo, il combattimento ravvicinato. Passiamo ad un pezzo forte delle armi della guerriglia, la bomba Molotov. Le bombe Molotov sono facili da fabbricare, a partire da strumenti facilmente reperibili e la cui presenza è normalmente ingiustificabile in ogni casa: bottiglia, benzina, stracci. Una Molotov consiste di una bottiglia di vetro riempita di un liquido infiammabile come benzina o alcol e da uno straccio imbevuto del liquido attaccato al collo della bottiglia, sigillato con del nastro adesivo. Attenzione ragazzi, lo straccio va sigillato intorno al collo della bottiglia e non inserito dentro al collo della bottiglia, perché in questo caso quando accendete lo straccio, potrebbero prendere fuoco i vapori di benzina, facendovi esplodere la bottiglia in mano. Mi raccomando. Bene, la bomba Molotov viene utilizzata dando fuoco allo straccio e lanciando la bottiglia contro l'obiettivo. La bottiglia va in frantumi nell'impatto e sparge il liquido in fiamme sul bersaglio. È molto emozionante. Ora passiamo ad un attimo di storia, una sorta di lezione di storia. Ora capisco che questo per molti potrebbe risultare noioso, inutile. E questo è proprio il momento che forse stavate aspettando, il momento giusto per, che so, alzarvi e magari andare in bagno se dovete fare pipì, oppure uscire dal teatro se vi state annoiando. Approfittatene, non perderete molto. Lezione di storia. Il nome, bomba Molotov, deriva da Vyacheslav Molotov, che era ministro degli esteri e segretario alla guerra dell'Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale. Forse non sapete che, contrariamente a quanto si crede, l'ideatore non fu lo stesso Molotov, ma i militari nazionalisti di Francisco Franco, che durante la guerra civile spagnola, il 28 ottobre 1936, utilizzarono bombe Molotov per contrastare dei carri armati sovietici T-26. In quel caso il nome Molotov veniva indicato per individuare quale sarebbe stato il bersaglio ideale di quelle neobombe incendiarie. Qualche anno dopo, anche i soldati dell'esercito finlandese usarono con successo le bombe Molotov contro i carri armati dell'armata russa in due conflitti tra la Finlandia e l'Unione Sovietica, la guerra d'inverno e la successiva guerra al fianco delle armate tedesche. Secondo altre versioni, fu coniato qui il termine Molotov, a seguito delle dichiarazioni del ministro Molotov, secondo cui i bombardieri sovietici non sganciavano bombe, ma cibo per i finlandesi. I cosiddetti cestini del pane di Molotov. La risposta sarcastica fu appunto il cocktail Molotov. Le bombe Molotov furono addirittura prodotte in massa dalla catena di negozi Alko, monopolio statale finlandese dell'alcol, accompagnate dai fiammiferi per accenderle. Le bombe Molotov furono spesso utilizzate in maniera massiccia dall'armata rossa sul fronte orientale contro i mezzi corazzati tedeschi, i Panzer, assolutamente temibili in campo aperto, si imbarcavano spesso in scontri cittadini fra i vicoli angusti ed edifici semidistrutti. In questi si nascondevano i soldati russi. Potrei anche mettermi da quest'altra parte. Forse vi state annoiando. Mi giro da quest'altra parte. Potrei allontanarmi. Potrei avvicinarmi. Potrei avvicinarmi ancora di più e guardarvi dritto negli occhi. In città come Leningrado, Mosca e soprattutto Stalingrado venne ben presto messa a punto una tecnica di combattimento assai efficace ed economica, benché fosse assolutamente necessaria una discreta dose di temerarietà. I soldati affrontavano i carri armati individualmente, muniti solo di una spranga di ferro e di una Molotov. Se riuscivano ad arrivare abbastanza vicini da non essere più sotto tiro delle torrette di mitragliatrici, sprangavano i cingoli del mezzo in modo da bloccarne la corsa, si arrampicavano sopra il carro e gettavano all'interno una bottiglia incendiaria. Come va? Tutto bene? Beh, ragazzi, oltre alle mazze da baseball, le bombe Molotov, quando andate ad una manifestazione, non dimenticate mai di portare con voi la cagoule. Cos'è la cagoule? È il cappuccio. Il cappuccio per coprire il viso. Fa molto più chic definirla cagoule. Bene, la cagoule è un cappuccio appunto che copre la testa ma lascia libero il viso. Era usata dai monaci e spesso era attaccata al mantello. Anche il cappello, indossato dai membri del KKK, è una forma particolare di cagoule, nome derivato dal latino cogola. Il volto è completamente coperto con due fessure per gli occhi. E In realtà la Cagoule è diventata, intorno al 1968, anche un capo di moda. Pierre Cardin è stato il primo ad usare la Cagoule. Irène Brin definì quei modelli berretti da falconiere. Pierre Cardin fu seguito da Rabanne, Paco Rabanne, e da Courrèges. Un'ulteriore evoluzione della Cagoule si deve ad Albini. Oltre alla Cagoule potete anche utilizzare un cappuccio in maglia o di altro materiale. L'importante è che copra anche soltanto parte del viso. Può essere chiaramente utilizzato anche il collo di una maglia che, rialzato, diventa un cappuccio. Gran finale! Signore e signori, come avrete capito, questo spettacolo non può essere definito né una commedia né una tragedia. È semplicemente il racconto di uno squarcio di mondo visto da esseri semplici. Ringrazio tutti voi per aver seguito un testo di difficile interpretazione ed una poetica che ha subito variazioni continue fino a giungere al prodotto finito di questi giorni. È stato un vero piacere stare con voi. Vi ringrazio. Spero che questa serata sia servita a qualcosa. Arrivederci. Guerriglia, guerriglia, guerriglia live show. Guerriglia, guerriglia, guerriglia live show. Guerriglia, guerriglia, guerriglia live show. Guerriglia, guerriglia, guerriglia live show. Guerriglia, guerriglia, guerriglia live show. Guerriglia, guerriglia, guerriglia live show. Guerriglia, guerriglia, guerriglia live show. Guerriglia, guerriglia, guerriglia live show. Fine.